insomma, la situazione è abbastanza tesa. Pronto? Sì, pronto. Ciao, ciao. A tutti e a tutte. Guardate, è una situazione surreale perché giusto pochi minuti fa c'è stata una deviazione. Avevamo il corteo autorizzato fino alla stazione. Abbiamo provato ad entrare dentro la stazione. Subito, diciamo, il reparto della Cerere è abbastanza andato fuori di testa, ha cominciato a caricare proprio in mezzo alle pensilline della stazione stessa. È partita la prima carica, dopodiché hanno fatto una mossa che strategicamente è stato un autogol, perché noi abbiamo provato a girare nel secondo ingresso della stazione che loro inizialmente presidiavano e subito dopo hanno mollato mentre noi stavamo deviando, quindi siamo tornati indietro cercando di andare a occupare i secondi binari della stazione centrale di Palermo, al che ci siamo trovati noi davanti alle porte e loro addosso. Con una violenza inaudita e molto molto becera, come solo loro sanno fare. Adesso abbiamo deviato e loro continuano a seguirci ad uomo. A dire il vero, il corteo è ancora compatto, anche se il corteo vero e proprio in questo momento non si può parlare perché tanti compagni si sono attaccati. In questo momento abbiamo due camionette, due blindati che ci seguono, più centinaia di sbirri proprio a portata d'uomo. Ma cercano di fare fermi? Non ce la possono fare in mezzo alla strada, diciamo, a fare fermi. Adesso siamo alla terza entrata della stazione, si sono schierati in cordone a presidiare, diciamo, l'entrata, e diverse centinaia di compagni e compagne siamo qui davanti. Stanno passando dei cori in questo momento, c'è qualche contuso, qualche persona con qualche bernoccolo abbastanza evidente. Ripeto, la cosa che spiace è che magari, come spesso succede in queste dinamiche, buona parte del corteo si è disperso, per cui non siamo pochi ma non siamo nemmeno tantissimi qua davanti. Ci sono un sacco di bandiere no TAV e soprattutto la questura di Palermo dimostra un'ulteriore incapacità di gestione della piazza assoluta, perché, ripeto, la mossa di far finta di presidiare il secondo ingresso della stazione per poi andarsene stupidamente pensando che noi stavamo deviando e lasciare l'ingresso vuoto, significato praticamente lasciarci la possibilità di entrare, al che poi ci hanno ripensato un attimo dopo e sono partiti caricando. Cioè, la potevano fare molto più pulita se volevano caricarci, ecco. In questo momento, ripeto, è arrivato un altro blindato, ce l'abbiamo alle spalle, e in 10 metri di strada siamo chiusi praticamente da due blindati e da qualche cordone di celere messo davanti a noi. In questo momento sono proprio in mezzo. Stiamo parlando comunque di 150-200 compagni e compagne che sono ancora qui a gridare la Valsusa paura non è la Valsusa in ogni città. Senti, se diciamo la situazione si sta ritornando sotto controllo e se tu reputi sia proprio così, perché parecchia attenzione, diciamo. Se tu reputi però, allora sia il caso meglio rispetto a 5 minuti fa. Ecco, se tu reputi sia il caso, dicevo, magari potremmo spendere qualche minuto per così parlare della giornata palermitana. Immagino che ci siano, insomma, una serie di questioni in ballo a partire dalle quali avete declinato, insomma, l'appoggio alla giornata di oggi alla Val di Susa, ma a partire in realtà, insomma, la giornata di solidarietà con la Val Susa è partita una settimana fa, quando è partita la campagna Io Voto No TAV. Sostanzialmente le parole chiavi, le rivendicazioni che facciamo hanno voluto cavalcare un po' l'onda elettorale, il tam-tam che si sta creando, diciamo, da un mese a questa parte, che durerà per tutto il prossimo mese, visto che ci saranno le elezioni a Palermo, e che soprattutto nei quartieri popolari, nei posti di lavoro, così come in ogni piazza, nelle discussioni da bar, non si parla altro di chi votare e chi non votare. Allora noi una settimana fa abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Valle e provato a trasformarlo in città, un voto no TAV, spiegando diverse ragioni. Intanto cercando di essere efficaci dal punto di vista comunicativo, visto che proprio per le discussioni e per il tantam elettorale di cui parlavo prima, arrivare con un flyer elettorale che chiaramente non caldeggia per nessun tipo di candidato, ma che ha la bandiera no TAV nel suo davanti e nel retro, spiegate tutta una serie di ragioni sul perché bisogna boicottare questa assurda opera è una cosa che ti permette di entrare in un bar e creare discussione reale anche con persone molto lontane o poco a conoscenza della questione. Non sto io certo a spiegare quali sono le dinamiche in quartieri popolari del sud Italia, del profondo sud Italia. Noi abbiamo cercato di scrivere, avrete letto sicuramente nell'appello, tutta una serie di possibilità su cui spendere sul territorio palermitano i 30 miliardi di euro stanziati per questa, ripeto, assurda opera. Chiaramente la nostra è stata una provocazione, però ci permetteva di fare ponte comunicativo con tutte le persone che in questo momento si trovano in cassa integrazione piuttosto che licenziati da grosse fabbriche del territorio in crisi. Come è stata recepito questo tipo di messaggio veicolato in questo modo particolare? Oggi abbiamo secondo me ottenuto un grosso risultato dal punto di vista della partecipazione, perché eravamo veramente, siamo tuttora... Insomma, non è che oggi i partiti politici godano di chissà quale fiducia, per cui ecco. No, è vero, però sapete meglio di me che nonostante i dati elettorali post primarie, nonostante i luoghi comuni comunque avvalorati dalla dimostrazione del fatto che la rappresentanza politica partitica ha veramente pochissima valenza anche a Palermo, vivere in un continuo stato di ricattabilità ti permette poi che hai voglia su tutti quei nodi, come diciamo noi, però questo poi significa anche molte volte svendersi al primo che ti offre le 50 euro per mettere la bandiera al balcone piuttosto che il santino elettorale, come lo chiamiamo noi. Purtroppo questa è una cosa molto radicata su questo territorio e non credo solo su questo, specie nelle periferie. Assolutamente. Quindi provare a portare i nostri contenuti, provare a portare una lotta che è distantissima da Palermo a livello di chilometri e cercare di ragionare con fruttivendolo piuttosto che col meccanico di Notab ci sembra, e i risultati ce lo dimostrano, una carta vincente. Sì, no, lo dicevo infatti cercando di problematizzare il fatto che, nonostante il fatto che ci sia così scarsa fiducia e populisticamente le polemiche sulla casta, insomma, inondano anche la carta stampata, poi quel meccanismo di espropriazione della nostra capacità di volere attraverso il voto purtroppo riesce sempre a funzionare. Allora, credo che se la sono studiata bene a tavolino, perché è tutto strategicamente pensato, voluto e realizzato. Ripeto, vivere in continuo stato di ricattabilità, andare a scuola quando le scuole crollano, non avere degli asili nido a disposizione, ritrovarsi realmente in mezzo a una strada senza alcuna prospettiva, purtroppo per chi non ha una coscienza politica così forgiata, ed è la stragrande maggioranza del popolo del nostro territorio, diventa soggetto a vabbè, sono tutti cornuti, non voto, poi quando si presenta il tipo vabbè, tu quanto mi dai. Dato che comunque i tempi incalzano e abbiamo bisogno anche di avere aggiornamenti sull'andamento delle iniziative nelle altre città, com'è adesso la situazione? E poi andiamo a chiudere, Cristian. Allora, si sta ricreando un déjà vu che abbiamo visto un quarto d'ora fa, in quanto ci stiamo allontanando e stiamo tornando verso la stazione centrale in una strada strettissima con la Cenere che ci costeggia sul marciapiede. Sentirete i cori? Sì, si sentono. È la situazione surreale, ripeto, i celerini con i manganelli e i caschi accanto a noi, quasi facente parte del corteo. Statene un po' alla larga, insomma, cercate di... Guarda, logisticamente è impossibile, a meno che non ci armiamo di ali, perché la cosa è veramente stretta e siamo in tarsi. Va bene, intanto sentiamo uno dei cori che vanno di più, insomma, in queste mobilitazioni, lo sentiamo in sottofondo. Ti salutiamo e ci risentiamo dopo. Grazie, buona resistenza. Ciao. Anche a tutte. Ciao, grazie.